Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Lucy De Crescenzo di Europictures per presentare il film I figli degli altri di Rebecca Zlotowski al cinema da giovedì 22 settembre 2022. Ben trovata. Ben trovata Federico. Raccontiamo cos'è questo film. È un film a cui sono molto legata per il tema femminile che affronta. Siamo stati in concorso appunto all'ultimo Festival di Venezia. È una regia al femminile con una protagonista femminile che racconta la storia di una donna intorno ai 40 anni, con ormai l'orologio biologico rispetto al fatto di avere figli e ha molte difficoltà, per cui ha una relazione con un uomo che ha una figlia e del legame che si stabilisce con appunto i figli degli altri, come recita il titolo. Del legame speciale che si può instaurare con i figli degli altri, alla famiglia allargata, ma soprattutto si parla del tema della maternità, dell'ambiguità del tema della maternità, perché alcune donne si sentono complete e realizzate solo se hanno figli, e quindi si interroga un po' su questa vicenda. Come hai scoperto questo film? Io ho letto la sceneggiatura. Diciamo che io ho un ottimo rapporto con il Face Wild Bunch, con il quale insomma distribuiamo diversi film, per cui quando arrivano i primi progetti, le prime proposte, loro ci propongono sempre direttamente gli script. E devo dire che dalla parte del nostro editoriale era piaciuta molto questa storia di questa donna. E poi devo dire che Virginie Fira, la protagonista, veramente interpreta questo personaggio in modo splendido, tant'è vero che anche su Venezia lei è stata proprio molto apprezzata per come conduce questo personaggio. Dopo la lettura del film, oltre all'interpretazione femminile, quali sono gli elementi che invece vedendo il film ti hanno convinto? È un film emozionante, Federico, è un film dove comunque, soprattutto io ti parlo come donna, colpisce particolarmente, perché certe volte c'è l'inadeguatezza di una donna di sentirsi appunto in un'altra famiglia e comunque in ogni caso fa di tutto per accettarsi. E poi quello che mi ha colpito è che comunque, anche, non è che voglio spoilerare, però succede che molto spesso se le storie finiscono, in un certo caso finisce anche il tuo rapporto che avevi stabilito con i figli degli altri, e questo è un elemento importante da valutare che mi ha colpito molto, perché c'era la sofferenza appunto di questa donna che comunque era legata a questa bambina e voleva continuare insomma il suo rapporto con questa bambina. Quindi questi sono gli elementi che mi hanno convinto, oltre a una regia bellissima di Rebecca Zlotowski, che comunque si conferma essere una sceneggiatrice e una regista molto talentuosa. Ecco, di lei cos'altro sappiamo? Sappiamo che comunque questa storia è ispirata un po' alla sua storia vera, perché anche lei era una donna abbastanza adulta che ha avuto una relazione per molti anni con il regista Jacques Audiard e quindi aveva stabilito un rapporto con i figli, quindi i figli di lui. E l'aneddoto carino è che dopo che lei ha scritto questa sceneggiatura e ha voluto realizzare questo film, lei invece poi è rimasta incinta ed è riuscita ad avere una bambina, e quindi questa storia è stata molto bella anche per questo. Che uscita sarà? Come al solito di qualità, perché comunque è un film che viene da un festival, è un film che si rivolge comunque a un pubblico colto. Usciremo con una quarantina di copie in prima battuta nelle principali città, ma anche nelle province, per vedere se si riesce poi ad allargarci. Ovviamente il periodo è molto particolare, però con la festa del cinema abbiamo visto che comunque il pubblico è tornato, e quindi questa cosa ci fa piacere. Noi riusciamo all'ultimo giorno della festa del cinema, potrebbe essere un modo per far correre la gente a riprendere un po' di nuovo confidenza con la sala. Ci dai tutti i riferimenti internet per sapere le sale? Sul mio sito www.eroteachers.it, oppure ci potete seguire anche sui nostri social. Siamo presenti sia su Facebook e su Instagram, abbiamo pubblicato già la lista delle sale e speriamo bene. Insomma, è una storia che veramente emoziona e che colpisce al cuore. Il film I figli degli altri di Rebecca Zlotowski al cinema da giovedì 22 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Lucy De Crescenzo di Euro Pictures che lo distribuisce. Alla prossima! Alla prossima, grazie, un saluto a tutti! Con Michele Sancisi, collaboratore di Wanted Cinema, che distribuisce il film Tuesday Club, il talismano della felicità, di Annika Appelin, al cinema da giovedì 22 settembre 2022. Ben trovato. Buongiorno Federico e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori, grazie dell'invito. Raccontiamo per sommi capi la trama di questo lavoro. È una commedia, di solito Wanted Cinema è nota per documentari anche di un certo impegno e questa volta ha voluto provare anche una strada diversa, forse perché appunto ci troviamo anche in un momento storico particolare. Una commedia delicata ma interessante e soprattutto molto ben realizzata. La protagonista è una donna matura, Karen, che conduce una vita esemplare, ha una famiglia felice, una bella casa, però a un certo punto in una festa del 40° anniversario di matrimonio, che è la prima scena del film, scopre che il marito Stan ha un amante e qui tutto cambia. Prima c'è un momento di crisi e poi Karen troverà, grazie alle amiche e ad una sua vecchia passione per la cucina che aveva sempre messo da parte per occuparsi della famiglia, ritroverà una nuova strada, una nuova vita, un nuovo entusiasmo senza compromettere più di tanto i rapporti familiari. Questo è anche un aspetto interessante del film, perché il film è un film svedese che ci mostra un approccio anche a queste situazioni di crisi. E forse noi latini, noi mediterranei, viviamo con più focosità, insomma, con più passionalità, mentre forse dall'estremo nord, dalla Scandinavia, ci arriva un esempio anche di comportamento civile, di creatività e anche del modo che si può essere per affrontare queste situazioni anche con un sorriso. Come ha incontrato Wanted Cinema questo film? Quando abbiamo visto questo film, tutto il gruppo, insomma, di lavoro di Wanted è stato positivamente colpito dalla simpatia di questa commedia realizzata molto bene. Ricordiamo che la regista Annika Appelin è una signora matura che ha più o meno l'età della protagonista, quindi fra i 50 e i 60. Ha avuto una lunga carriera nel cinema come sceneggiatrice e anche in diversi ruoli nella costruzione di film importanti, come per esempio Il sospetto di Thomas Vinterberg. E quindi ha messo poi in questa sua opera prima come regista una grande esperienza, per cui il film è ben diretto, gli attori sono attori di primo piano in Svezia, hanno anche un curriculum interessante, insomma tutte le componenti del film sono veramente ben curate. Abbiamo parlato degli attori, musica, il montaggio, ci sono delle scene di ballo molto carine, un film insomma pieno di spunti piacevoli, molto ben confezionati. Ecco, visto che frequentiamo poco gli attori nordici, diciamo qualcosa in più rispetto al cast. Sì, Mary Richardson, se vedete il suo volto la riconoscete per aver partecipato a molti altri film, tra cui cito ora Daybreak, Evil, Eyes Wide Shut in un ruolo secondario. Peter Stormer ha una bellissima faccia che è stata presentata anche dai fratelli Coen per Fargo, uno dei loro film più belli. Ha avuto anche un ruolo significativo in Minority Report, anche lui è uno di quei volti forse di caratterista più che di protagonista, che quando li vedi dici: ma dove l'ho già visto questo qui? Perché una bella faccia che magari non corrisponde ad un nome famoso. Poi ci sono anche Ida Engvall, un'attrice che ha avuto una certa risonanza anche in serie TV come Rebecca Martison e anche Mr. Howe. È una giovane che, come altri protagonisti del film, ha lavorato anche in teatro, perché sappiamo che la Svezia ha una grande tradizione teatrale e alcuni di questi sono stati diretti in teatro persino da Ingmar Bergman quando ha fatto, insomma, la sua carriera teatrale, e hanno quindi una solida formazione come attore. Qui giocano più che altro, ecco, in questa commedia leggera, però con una grande maestria personale. Che percorso ha avuto all'estero, sia rispetto ai festival che alle sale? Il film è in corso di distribuzione, uscirà in grossi mercati come gli Stati Uniti, l'Australia, il Canada, la Nuova Zelanda, oltre a in Europa, Svezia, Italia, Ungheria. È stato un film segnato dal Covid, perché è stato realizzato proprio durante il lockdown, e però, ecco, nonostante questo fatto, sta avendo la sua storia e anche forse ha avuto un qualcosa in più da questa esperienza. C'è una dichiarazione del protagonista Peter Stormare, che è interprete il ruolo di un fascinoso cuoco maturo, che a un certo punto fa battere nuovamente il cuore di questa donna protagonista, di questa Karen, che frequenta un suo corso di cucina fusion orientale insieme alle sue amiche del cuore. Ecco, Peter Stormare ha detto: Tuesday Club è un film fenomenale, pensate che sono quasi l'unico uomo in un cast tutto di donne bravissime. Lo abbiamo girato durante il lockdown, racconta Stormare, con enorme difficoltà, ma nessuno si è ammalato e anzi ciò ha dato qualcosa di magico e molto vitale a questa storia sull'amore e sul piacere. Insomma, è un film che mostra come reagire alle difficoltà seguendo ciò che più conta nella vita, i nostri sogni. In questo senso, oltre alla lavorazione del film sicuramente, ma forse anche il contenuto del film, sono stati toccati da questa esperienza drammatica che tutti abbiamo vissuto, il Covid, il lockdown, e quindi è un film che, senza parlare di Covid, però ci racconta un ritorno alla vita, che è quello che stiamo vivendo oggi con il post-Covid, e quindi è anche una metafora, se vuoi, leggera, delicata, piacevole, di una realtà sociale che è comunque all'evidenza di tutti. In quante sale uscirà? Abbiamo molte sale, sul sito di Wanted Cinema, nella home page ci sono le locandine di tutti i film che in questo periodo stanno uscendo per Wanted, e cliccando sulla locandina di Tuesday Club si accede ad una pagina in cui, oltre a una piccola trama, c'è l'elenco sempre aggiornato giorno per giorno delle sale che lo programmano. Siamo a una cinquantina di sale in tutta Italia, quindi non è difficile trovare questo film nelle città principali, poi speriamo in seconda battuta di raggiungere anche i centri più piccoli. Appunto, è una commedia che potenzialmente è piacevole e adatta per tutte le età, perché appunto si racconta anche una dinamica familiare in cui ci sono genitori e figli, genitori sui 60, figli sui 40, e quindi anche lo stesso spettro di età può essere quello che compone il pubblico ideale di questo film. Naturalmente è un film piacevole da vedere anche con figli più piccoli o con tutta la famiglia riunita. Il film Tuesday Club, il talismano della felicità di Annika Appelin, al cinema da giovedì 22 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Michele Sancisi, collaboratore di Wanted Cinema, che lo distribuisce. A presto! A presto, arrivederci e buona visione. Con Mattia Della Puppa di Adler Entertainment per presentare il film Maigret di Patrice Lecomte al cinema da giovedì 15 settembre 2022. Ben trovato. Ciao a tutti, ciao. Raccontiamo brevemente la storia. La storia del film è tratta da un libro della saga di Maigret, quindi scritto da Simenon, che si chiama Maigret, la giovane morta, e racconta una delle indagini del commissario Maigret, che sostanzialmente si trova a dover cercare il colpevole del cadavere di una ragazza che appunto viene trovata morta. La cosa che rende il film interessante dal punto di vista della storia è che poi sostanzialmente questa cosa tende a diventare quasi un viaggio nel passato di Maigret, perché lui riconosce in quella ragazza molte cose del suo passato, e quindi poi Pinsi di Pana, costruito appunto come un giallo ma con tante tante atmosfere interiori, crepuscolari, insomma atmosfere che il regista ci ha già mostrato altre volte con grande successo. C'è stata la conferenza stampa di presentazione, sono uscite cose interessanti dal regista. Sì, allora la conferenza stampa è stata fatta da remoto, perché sapete, Conte non poteva venire in Italia per impegni suoi personali. La cosa curiosa della conferenza stampa è che mentre eravamo in attesa con il regista e con i moderatori e noi organizzatori, in quel momento è arrivata la notizia della morte di Gianluca Dati. Quindi siamo stati i primi sostanzialmente a raccogliere la testimonianza di Patrice De Conte, che ovviamente era molto molto turbato. Gli elementi che sono venuti fuori interessanti nella conferenza stampa sono ovviamente legati al Retail Depardieu, che è una presenza attoriale fenomenale all'interno di quel ruolo, ma soprattutto si raccontava Le Conte che Depardieu per tutti i film ha fatto un sac massimo due, perché era talmente all'interno del personaggio che non sono mai arrivati a dover fare il terzo track. L'impersonificazione è davvero totale con il personaggio, quindi questa è una cosa che mi ha colpito molto quando stavo seguendo la conferenza. Sì, infatti uno dei due elementi secondo me di maggior rilievo è la profonda empatia del personaggio con tutti gli altri, che gli deriva da un'esperienza dolorosa personale. Questo sicuramente salta agli occhi. Sì, sì, sì, è assolutamente così, è parte di quello che ti dicevo prima. Ovviamente noi conosciamo Maigret sia dai romanzi, ma anche dalle opere che sono state fatte in precedenza. Questo è un Maigret diverso, con il quale forse un po' più semplice, come dicevi tu, entrare in empatia. È più semplice farlo per molti motivi, perché è un Maigret quasi che sente la fine e quindi sente quasi la necessità poi di empatizzare con le altre persone e quindi in qualche maniera anche con lo spettatore. C'è nel film la famosa pipa di Maigret, che in quel momento è una pipa che lui dovrebbe negarsi per questioni di salute, quindi sono un sacco di cose che lo rendono vicino, ecco. E tra l'altro è una narrazione poi del film che tende ad essere molto molto asciutta, che è una cosa che ci ha confermato essere voluta il regista durante l'attività stampa, proprio perché gli dice che ama fare film corti. I film tendono a durare da 2 ore e mezza in su, io sono più per la brevità della narrazione, quindi storie forti, reazioni immediate. Il secondo elemento di grande interesse è il ritratto di una società profondamente classista e spietata. Sì, sì, sì, sì, assolutamente così. Questa è una delle domande che poi sono state fatte al regista in conferenza stampa. È così, è una Parigi dipinta esattamente nella maniera in cui dici tu, quindi con profondissime differenze dal punto di vista sociale. E il regista ha confermato che comunque quella cosa ha anche un valore allegorico dal punto di vista riferito alla comunità. Come è andato all'estero? Che percorso ha avuto? In Francia ha fatto un risultato straordinario, nel senso che è stato primo al box office per 3 settimane consecutive. Quindi è un film che ha avuto un successo clamoroso in patria. Adesso vedremo come si comporterà all'estero. Non siamo tra i paesi che lo stanno mettendo fuori in sala in questo momento e ci aspettiamo un buon risultato. Che uscita è? Dal punto di vista del numero delle copie, 200 copie, sì, 200 copie. Per sapere l'elenco delle sale ci sono i riferimenti web dell'Adler? Sul sito di Adler, www.adlerent.com, oppure sui profili social di Adler, su Facebook e Instagram. Il film Maigret di Patrice Leconte al cinema da giovedì 15 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Mattia Della Puppa di Adler Entertainment che lo distribuisce. A presto! Grazie a tutti, ciao. Con Cristian Carmosino, co-direttore artistico della prima edizione del Rome International Documentary Festival al Cinema delle Province dal 24 al 30 settembre 2022, ben trovato. Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Di cosa si tratta? Come ogni festival abbiamo una serie di proiezioni, di film straordinari. Sono la selezione di quello che noi riteniamo il meglio del documentario internazionale dell'ultimo anno, anno e mezzo. Sono 5 film internazionali, stranieri e 5 film italiani. In prima romana, compaio in prima mondiale. Come nasce il progetto? Da una vecchia collaborazione. Io insieme a Emma Rossilandi dirigemmo per 3 anni il mese del documentario tra il 2012 e il 2015. E fu una grande esperienza, un festival da noi ideato e organizzato all'interno di DocKit, e quell'esperienza lì ci ha suggerito di riprendere una manifestazione con lo stesso spirito, perché ci siamo incontrati circa un anno fa e abbiamo verificato che a Roma non esiste un festival dedicato interamente al documentario e ci sembrava un vuoto da colmare, e quindi ci siamo rimboccati le maniche e stiamo partendo, sperando che questo festival diventi un punto di riferimento non solo per gli spettatori ma anche per i cineasti, gli studenti, perché poi appunto abbiamo una serie di attività che non sono solo proiezioni di film ma masterclass e incontri, e quindi un luogo di visione, di formazione, di scambio. Dove avete pescato? I titoli li abbiamo pescati come fanno molti festival, attraverso una piattaforma online, dove era possibile scrivere i film, quindi abbiamo fatto un bando, abbiamo ricevuto diverse centinaia di film, è stato un lungo processo di selezione a cui hanno partecipato 10 persone e poi naturalmente abbiamo anche pescato tra le distribuzioni e le conoscenze che abbiamo, perché insomma sia io che Emma, oltre al festival, siamo documentaristi, quindi abbiamo una lunga esperienza e conoscenza anche diretta di alcune produzioni e distribuzioni, e quindi siamo anche andati a cercarci dei film che avessero avuto un particolare successo e che non fossero stati ancora visti e distribuiti in Italia. Quindi sì, appunto ci sono delle anteprime di film straordinari che hanno vinto premi importanti in giro per il mondo e che in Italia ovviamente, per i soliti motivi del nostro mercato un po' asfittico, non sono mai stati proiettati e visti. Come saranno articolate le giornate di questa settimana? Noi faremo 4 proiezioni al giorno, 15.30, 17.30, 19.30 e 21.30, dove le 2 proiezioni, tra virgolette, serali, cioè quelle delle 19.30 e le 21.30, sono le prime dei film che vengono poi replicate il pomeriggio del giorno seguente. Quindi nell'arco dei 7 giorni del festival si possono vedere tutti e 10 film in concorso, una volta la sera e una volta il pomeriggio, e poi le mattine faremo delle masterclass che saranno nei giorni del 27, 28 e 30. La prima masterclass è con il regista newyorkese Bill Morrison, che sarà accompagnato in una conversazione con Alina Marazzi, e questo incontro lo faremo al Centro Sperimentale di Cinematografia, che è il nostro partner, e questo incontro lo facciamo anche in collaborazione con l'AMOD e con il festival neonato che inizierà il prossimo anno, organizzato dall'AMOD, che si chiama An Archive Fan Footage Festival. Poi ci sarà una seconda masterclass con Costanza Quattriglio e la sua direttrice della fotografia Sabrina Varani, la mattina seguente, quindi la mattina del 28. Il 30 faremo la terza masterclass con Aline Hervé e Beppe Leonetti sul montaggio, e in mezzo il 29 mattina invece insieme ad Enrico Parenti io stesso accompagnerò, sarò presente a un incontro che abbiamo deciso di lasciare aperto tra tutti i documentaristi autori di documentari, che si potranno incontrare, discutere sullo stato delle cose e scambiarsi informazioni, desideri, possibilità, problemi, insomma questo, e sarà comunque aperto a chiunque voglia partecipare. Tutto questo al Cinema delle Province, che noi abbiamo scelto perché è una sala bella, importante, appena rinnovata, ristrutturata, e ancora una delle poche monosala con un numero importante di posti, tra l'altro in un quartiere che a noi sembra con un grande potenziale, perché è un quartiere di studenti nella zona di Piazza Bologna, e vorremmo portare il cinema documentario un po' fuori dal centro, dove di solito viene mostrato e proiettato, no? Le storiche sale come il Farnese, come il Quattro Fontane, eccetera. Quindi questa è un po' l'operazione, portare un po' il documentario, il cinema importante internazionale fuori dal centro e cercare di coinvolgere soprattutto i giovani. Per quanto riguarda le opere presentate, è prevista anche la presenza di autori e autrici? Assolutamente, ti ringrazio per chiedermelo. Noi abbiamo invitato tutti i registi perché per noi, lo ripeto, è importante non solo vedere i film ma anche poterne parlare, poterci confrontare, poter incontrare direttamente gli autori, quindi sono stati invitati tutti gli autori. Non tutti potranno essere presenti fisicamente, perché ci sono autori che girano, ci sono autori che vanno ad altri festival, un paio di autori sono qui in contemporanea a un festival in Corea molto importante, e quindi questi autori, alcuni li vedremo comunque dopo la proiezione via Skype, insomma in collegamento per un dibattito live, però alcuni autori, tra cui Bill Morrison, che è anche il presidente della giuria, Mira Bernstein e altri autori e gli autori italiani saranno presenti in sala, incontreranno il pubblico nelle due proiezioni. Ci lasci tutti i riferimenti internet per i dettagli del programma? www.ridf, come appunto acronimo di Rome International Documentary Festival.it, oppure sui social ci trovate sempre come Rome International Documentary Festival o RIDF, sia su Facebook che Instagram. Prima edizione del Rome International Documentary Festival al Cinema delle Province dal 24 al 30 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Cristian Carmosino. A presto! A presto, ci vediamo al Cinema delle Province. Buona giornata! Con Fabia Bettini, organizzatrice, insieme a Gianluca Giannelli, della terza edizione di Floating Theater Summer Fest. A Roma, al Lago Villa Ada, dal 24 agosto al 25 settembre 2022. Ben trovata. Grazie, ben trovata a te. Raccontiamo cos'è per chi non lo conoscesse. Allora, il Floating Theater è il terzo anno che viene realizzato. Ci siamo spostati dall'Eur nel laghetto di Villa Ada quest'anno. Ed è un'arena galleggiante, un po' un unicum, un po' un'isola che non c'è. Abbiamo realizzato un'arena galleggiante dove è possibile vedere i film in cuffia, quindi ad impatto sonoro zero, sul laghetto di Villa Ada, dove è possibile vedere dalle anteprime ai film restaurati fino ai film in lingua originale. Quanti sono i film proiettati? Alla fine saranno circa 40-45 film, perché alcune serate proietteremo una doppia proiezione nel weekend, e tantissime sono le richieste che stanno arrivando in queste ore anche per fare delle proiezioni extra, delle presentazioni speciali, quindi davvero un grande entusiasmo. Francesco Costabile presenta una femmina, una serata insieme al Davide Donatello. Abbiamo il calciatore Beppe Signori che presenta il suo film Fuori Gioco per la prima volta a Roma, in cui racconta la storia di sport e di vita dopo la vicenda del calcio scommesse. Abbiamo Lil e Matteo Capotonda, che sono i voice talent del film per i bambini di Silly Super Pets, in super anteprima insieme ai characters. Ce n'è davvero per tutti i gusti, insomma. Tutti i giorni, senza interruzione? Sempre, senza interruzioni. Ci trovate al laghetto per un mese per il rientro dei romani. Ringraziamo il comune, l'estate romana. Ci fa piacere, insomma, essere qui presenti tutte le sere per il rientro delle famiglie e cercare di riavvicinare il pubblico al cinema. Com'è strutturata l'area? Nell'area c'è questa arena galleggiante, c'è una piccola biglietteria e c'è pure uno spazio ristoro dove sarà possibile prendere degli aperitivi. L'arena è completamente ecosostenibile, è fatta con materiali di riuso, ci sono 150 sdraio, quindi è proprio un'esperienza, è quasi una performance, un'esperienza completamente immersiva nella natura, con le cuffie, in un posto davvero magico come quello che è il contesto di Villa Ada. Una scelta dettata pure un po' da un'idea ecosostenibile che veniva da lontano, dai tempi del Covid, nasce da Cinema da Casa, quando proiettavamo sui muri di fronte alla nostra finestra, e abbiamo proseguito con questa idea di sostenibilità, di contatto con la natura e di grandi film. Com'è stata la scelta dei titoli? La scelta dei titoli è stata un po' dettata da fare delle proiezioni uniche, così come è unica l'arena. Quindi è difficile trovare film che si trovano in altri luoghi. Avremo per esempio la proiezione a Roma in esclusiva di 14 giorni, che è il film di Ivan Cotroneo con tutto il cast. Avremo delle anteprime, come ti accennavo prima dell'uscita in sala, film restaurati. Quindi l'idea era rendere un po' tutto unico, dal film che si ha occasione di vedere al luogo in cui si vede. Anche rispetto ai film restaurati c'è la collaborazione con qualche struttura? Abbiamo tante collaborazioni sia con la Cineteca di Bologna, ma in particolare quest'anno con la Fondazione Cinema per Roma, con cui è realizzata l'Arena. Abbiamo una collaborazione con Mubi per quel che riguarda soprattutto film che presentiamo in lingua originale con sottotitoli, e poi anche con Uomini Film e Television e tante altre realtà culturali che abbiamo piacere, insomma, di sostenere tra le serate che andremo a proporre. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Trovate tutto su www.floatingtheater.it e sui nostri social, ma anche su Alice nella città. Terza edizione di Floating Theater Summer Fest a Roma, al Lago di Villa Ada, dal 24 agosto al 25 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento all'organizzatrice con Gianluca Giannelli, Fabia Bettini. A presto! Grazie, a presto, grazie mille! Con Alberto Di Caro e Carlo Puoti, due degli organizzatori della terza edizione del Vertigo Film Fest, Milan International Short Film Festival, all'Anteo Palazzo del Cinema dal 21 al 23 settembre 2022. Ben trovati. Ciao. Raccontiamo cos'è. Vertigo Film Fest è un festival, come dice il nome, di cortometraggi, che nasce un po' dalla nostra volontà di portare cortometraggi ad un pubblico che non sia semplicemente quello tipico dei festival cinematografici, quindi un esperto tecnico nei confronti dei cortometraggi, ma ad un pubblico il più vasto possibile, perché il nostro obiettivo è un po' quello di fare in modo che il cortometraggio divenga il punto di inizio di una chiacchierata, di una discussione, perché diciamo che la cosa più importante per noi è il momento di discussione che si crea dopo la visione di un cortometraggio. Quindi il nostro festival è un festival che cerca un po' di sfruttare questo aspetto. Proiettiamo il cortometraggio e poi se ne discute assieme. È iniziato un po' con delle serate piccole, brevi, durante l'anno, che continuiamo a fare, e poi si è evoluto sempre di più fino a che non abbiamo raggiunto proprio la dimensione del festival e di questa serata finale, insomma. Com'era nato tutto? Dai tempi dell'università, quando facevamo appunto classico cineforum, e una volta un po' anche per scherzo abbiamo proiettato i cortometraggi ai nostri colleghi di università, dando dei premi un po' giocosi un po' a tutti, e dai complimenti che avevamo ricevuto e anche dalla bella partecipazione che avevamo visto abbiamo detto: perché non ci proviamo sul serio con dei cortometraggi veri e propri? E il nostro festival, la sua formula online, è ispirato da altri piccoli festival di cortometraggi, come ce ne sono tanti altri, ecco. Quante sono le opere presentate? Durante l'anno dipende un po' dalle annate. Quest'anno abbiamo raccolto più di 250 cortometraggi. Ovviamente poi c'è una selezione, e quindi abbiamo una rosa di selezionati che è costituita da 18 cortometraggi, che sono 8 di genere fiction, 5 di documentario e 5 di animazione. Sono tutti molti stili diversi, molti livelli diversi, quindi è un po' una miscellanea di stili, di tematiche. Abbiamo selezionato un po' anche su questa base. Saranno presenti anche autori ed autrici? Sì, delle tre giornate che faremo di proiezione all'Anteo verranno più registi e autori delle opere, e tra l'altro il venerdì alle 18, prima delle proiezioni, faremo un panel proprio con i registi presenti in cui si discuterà dello stato di salute del cinema e dei cortometraggi in generale. Quali saranno gli orari? Abbiamo tre serate diverse, le prime due che sono mercoledì 21 settembre e giovedì 22 saranno serate dalle 19.30 alle 23, dove proietteremo sei cortometraggi diversi con una pausa tra le 21 e le 21.30. Venerdì invece 23 faremo appunto questo piccolo panel dalle 18 alle 19 e poi sempre dalle 19.30 alle 21 la prima parte dei cortometraggi, 21.30, 23 la seconda parte, e poi finalmente alle 22.30 ci sarà la premiazione. La cosa importante comunque che ci teniamo a ricordare è che le persone potranno unirsi alla proiezione in qualunque momento. Noi appunto dopo ogni cortometraggio faremo un piccolo dibattito, quindi ci sarà tempo di unirsi successivamente all'inizio della serata di cortometraggi. L'ultimo appunto è sabato 24, in cui faremo un piccolo aperitivo con chi vorrà esserci, chi ha partecipato al festival, chi invece non è riuscito a partecipare e vuole conoscerci di persona e conoscere la realtà del festival. Faremo un aperitivo a Narres, è un bistro libreria, e insomma, sarà un momento un po' ancora più informale dove conoscerci. Ci date tutti i riferimenti web per saperne di più? Il nostro sito internet è vertigofilmfest.com e abbiamo la pagina Instagram e Facebook Vertigo Film Fest, e presto saranno disponibili i biglietti in prevendita proprio sul sito, che poi rimanderà al sito dell'Ampeo, dove appunto c'è la biglietteria vera e propria. E nel caso poi qualcuno volesse mandarci dei cortometraggi, basta che ci scriva, trova tutte le informazioni sul sito del festival, oppure trova la nostra pagina di Film Freeway, dove è possibile inoltrarci i cortometraggi, che sarà possibile dalla prossima edizione che apre a ottobre. Terza edizione del Vertigo Film Fest, Milan International Short Film Festival, all'Anteo Palazzo del Cinema dal 21 al 23 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a due degli organizzatori, Alberto Di Caro e Carlo Puoti. A presto! Grazie a te. Tutta Scena Cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.